Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto Mondo. Eccoci qua. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Ben ritrovata. Buongiorno. Io lo so che magari qualche ascoltatore pensa che sono un po' USA obsessed, però insomma anche oggi direi di iniziare dagli Stati Uniti per due ragioni. La prima si lega comunque alla questione del vaccino di cui avete parlato, perché questa pledge, questa promessa, questo impegno sottoscritto da 9 grandi aziende farmaceutiche per sì. non farsi influenzare in alcun modo da motivazioni politiche nell'iter di sperimentazione dei vaccini, che era soltanto un'indiscrezione, adesso è ufficiale, sono 9. Tra queste c'è anche AstraZeneca, di cui avete parlato perché ha interrotto la sperimentazione. E questa è la prima pagina di USA Today, dove però lo spazio maggiore è dedicato agli incendi che stanno devastando non soltanto la California, che come sempre è quella più colpita, ma anche stati confinanti o comunque intorno alla California: Nevada, Arizona, Idaho, Oregon, Wyoming, Montana. Cioè capite che sembra veramente davvero... La situazione è sempre molto grave, sì, di questi incendi. Tra l'altro evacuazioni di tante persone via elicottero, perché non c'è possibilità di spegnere questi incendi per salvarli lasciandoli sul luogo. Quindi questo è sicuramente fa molto effetto. Negli Stati Uniti non sono al momento gravi come quelli della scorsa estate, ma sono comunque molto preoccupanti. Il tema è anche che il governatore della California è democratico e quindi Trump sembra quasi ignorare questa emergenza, perché appunto tende a non fornire supporto federale quando agli stati dove i governatori sono democratici. Ricorderete sicuramente tutti lo scontro molto aspro con lo stato di New York, il cui governatore è il democratico Cuomo. Ci fai sentire anche sì, oggi qualche voce? Sentiamo. Perché come vi dicevo, insomma, Trump si sta occupando d'altro. Due giorni fa, ma quindi nella notte di ieri per noi, ha fatto questa lunga conferenza stampa dove ha parlato anche a suo modo, ha risposto alle accuse di aver usato parole irriguardose nei confronti dei caduti della Prima Guerra Mondiale, dicendo queste parole. I'm not saying the military is in love with me. The soldiers are. The top people in the Pentagon probably aren't, because they want to do nothing but fight wars so that all of those wonderful companies that make the bombs and make the planes and make everything else stay happy. Lido translation? Sì, dice: non sto dicendo che le gerarchie militari mi amano. Io sostengo che sono i soldati ad amarmi, perché invece the people at the Pentagon, cioè le persone al Pentagono, che è la sede del Ministero della Difesa americano, no, loro non mi amano per niente, perché l'unica cosa che quelle persone vogliono fare è scatenare delle guerre, così che quelle simpatiche, potremmo dire in italiano, aziende che producono armi fanno dei bei contratti. Questa è una cosa che sembra quasi finta, tanto è grossa da dire, perché prima di tutto sappiamo che l'industria delle armi è tra i primi finanziatori di Trump da sempre. Secondo, i militari, come adesso sentiremo spiegare Wesley Clark, che è un famosissimo generale, ha guidato anche le forze della NATO, i più meno giovani di noi sicuramente lo ricordano, ha avuto un ruolo molto importante anche qui in Europa. Il generale Wesley Clark spiega che tutti i militari sono da sempre impegnati a cercare di non scatenare guerre, perché è l'opzione sempre peggiore, soprattutto quando prendono servizio sopra un certo grado devono fare una disclosure dei loro portafogli finanziari e non possono assolutamente, pena esclusione dall'incarico, possedere azioni in aziende che in qualche modo sono legate all'industria militare. Ma sentiamo le parole di Wesley Clark, che peraltro ha una voce calmissima, sembra veramente un uomo rapacificato con se stesso. Sentiamo. Well, I think first, you know, the idea that most of the troops love Trump, that's wrong. They're seeing through him for what he is. But that statement is damaging to the integrity of the military chain of command. dice: io non credo innanzitutto che quello che dice Trump, cioè di avere il sostegno dei militari, dei soldati, sia vero. Io credo che loro lo vedano attraverso le sue parole, vadano oltre le sue parole e capiscano che spesso non dice la verità. Ma però quello che ha detto, per esempio, sul fatto che i generali del Pentagono abbiano degli interessi a scatenare delle guerre, e ricordiamolo per informazione completa che nella campagna per farsi eleggere per la prima volta Donald Trump aveva promesso e poi anche mantenuto di ritirare molti soldati da alcuni teatri di guerra che lui considerava non strategici. Peraltro poi ha firmato accordi miliardari con l'Arabia Saudita per forniture di armi, continua a finanziare in qualche modo le milizie che operano in Yemen, quindi tante contraddizioni. Però il generale Clark dice: comunque lanciare questo sospetto in una conferenza stampa senza contraddittorio comunque danneggia l'immagine dei militari. Giulia, parliamo di Brexit e ci racconti cosa c'è sui giornali, un retroscena che riguarda la Gran Bretagna. C'è una dichiarazione invece di poco fa del vicepresidente della Commissione Europea che parla di un negoziato molto difficile, con forti preoccupazioni. Sì, perché nonostante gli ultimatum lanciato da Boris Johnson, se entro il 15 ottobre non si riesce a trovare questo accordo con la delegazione dell'Unione Europea, noi facciamo una hard Brexit e va bene così, perché comunque la soluzione migliore. Quindi violiamo gli accordi che hanno portato a questa fase di negoziazione. Si è dimesso Jonathan Jones, che era il capo del team legale che doveva assistere i parlamentari in questa negoziazione, ed è sotto accusa anche Robert Buckley, che è l'attuale ministro della difesa, perché quello che se veramente si va verso un azzeramento delle negoziazioni e una hard Brexit, in realtà la Gran Bretagna starebbe violando le leggi internazionali. C'è una rivolta all'interno del Partito Conservatore, dopo tanti mesi si è espressa anche Theresa May, ex premier, che dice: se noi procediamo su questa linea ne va della credibilità internazionale del Regno Unito, perché nella comunità internazionale se si firma un accordo e poi lo si rinnega soltanto perché non si vuole continuare a sedersi a un tavolo di negoziazioni difficili, si perde appunto la faccia. Senti, Giulia, in Inghilterra sei il nuovo numero magico, no? Anche per quanto riguarda tanto che il Daily Mail titola Britain's Hit for Six, cioè un gioco di parole per dire adesso il target è 6, perché per via di questo enorme aumento ancora dei contagi, quasi già si parla di seconda onda, mentre tra l'altro anche loro stanno riaprendo tutte le scuole, Downing Street ha detto adesso il limite per gli assembramenti di persone, che si sia parenti o non si sia parenti, è 6. Non più di 6. Naturalmente questo immaginate, non so, in un pub dove come si fanno entrare solo 6 persone, quindi c'è di nuovo un tavolo in 8 non si potrebbe stare, famiglie. Intanto la regina però torna a lavorare, lei proprio è una Highlander, dalla quarantena autoimposta o dall'esilio autoimposto per ragioni di sicurezza in una delle sue residenze è tornata nel suo ufficio, quindi di ha finito Palace. Lo smart working anche la regina. Esatto. Allora, a proposito di seconda ondata, in Israele si parla di un secondo lockdown, mi dicevi. Sì, in Israele è molto controversa ed è una fonte di nuove critiche persino dai giornali più conservatori come il Jerusalem Post all'attuale presidente Benjamin Netanyahu, perché è quello che viene chiamato un flip-flop, cioè un continuo mettere regole, toglierle, cambiare opinione. I contagi aumentano moltissimo, secondo gli accusatori di Netanyahu è perché lui ha ceduto a molte pressioni, soprattutto dei tradizionalisti e delle comunità ortodosse che si erano opposti ai divieti di riunirsi per funzioni religiose e anche di chiudere alcune scuole, e quindi è stato riaperto tutto e la conseguenza è quella che sappiamo. Quindi è una situazione che potrebbe avere proprio delle conseguenze. C'è un editoriale durissimo sul Jerusalem Post che dice: qui stiamo parlando di potere e non di tutela della salute. Abbiamo tempo ancora per un titolo, un giornale, un titolo 2. Ma se vuoi, comunque, visto che non dobbiamo guardare a questa pandemia più che all'epidemia italiano-israeliana, quello del Financial Times, in India 90.000 casi al giorno. Però io mi sono fatta una piccola proporzione, sì, è un numero gigantesco, ma siccome in India sono più di 1 miliardo, è come se in Italia avessimo 54 casi con nuovi casi al giorno. Siccome ne abbiamo più di 1.000, sono messi meglio di purtroppo noi. E questa è la realtà. È la legge dei numeri. Grazie Giulia Crivelli. È tutto per la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Laura Faggini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Buona giornata, da me Alessio Maurizio, ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Ciao! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.